Io non so, cioè gli interventi, diciamo così, in scaletta sono finiti. Domani noi siamo qua alle 10, alle 3 apre la festa, la fiera contadina nel vero senso della parola, e ci sarà occasione appunto per alimentare queste narrazioni, insomma, quella che abbiamo cercato di fare questa sera. Io non ho altro da aggiungere se non una cosa. Tra i tanti appuntamenti che ci saranno, ci sarà domani, presenteremo il libro di un che ha attraversato la terra trema, Critical Wine da anni, che è il libro di Corrado Della Distesa. E oggi me lo sfogliavo e nella prefazione c'era di Nossi Ter, diceva una cosa tipo: se tra 100 anni le persone avranno ancora un rapporto con la natura, ascolteremo ancora queste storie. Se, come potenzialmente avverrà la devastazione che insomma si prospetta dal punto di vista economico e anche culturale, perlomeno quelli che le hanno ascoltate sapranno che c'erano delle persone che questa devastazione non l'hanno accettata in modo ipocrita e senza dignità, insomma. Questa è un po' la conclusione, un po' triste, però di fatto, volente o nolente, è questa la cosa. Buona terra trema.